Europa 24. Buongiorno a tutti e buon pomeriggio da Daniele Biacchiesi. L'Italia ha dunque recepito la direttiva europea sul tabacco. La normativa sul fumo era stata rivista dall'Europa nel febbraio-marzo del 2014. Si trattava della revisione delle misure entrate in vigore nel 2002. Dopo 12 anni, fumare era ancora la causa di morte principale, 700.000 persone l'anno. Ma nel tempo le misure per disincentivare il fumo hanno contribuito a ridurre la percentuale di fumatori, dal 40% nell'Unione a 15%. Nel 2002, al 28% nell'Unione a 27% nel 2012. A questo punto i paesi europei hanno avuto 2 anni di tempo a disposizione per adeguarsi, 2 anni che stanno per scadere. L'Italia ha varato ieri un decreto che entrerà in vigore al più tardi entro la fine dell'anno per far passare la voglia di fumare ad almeno una parte degli oltre 11 milioni di fumatori italiani. Il divieto di fumare in auto in presenza di minori o donne in gravidanza è il passaggio più titolato e forse più complicato da attuare. Di certo non passeranno in osservazione le immagini e le parole che i pacchetti dovranno riportare sul 65% della confezione. Le conseguenze delle sigarette in bella mostra e messaggi come il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno. Dalle tabaccherie spariranno le confezioni di tabacco inferiori a 30 grammi e i pacchetti da 10, rifugio dei ragazzi e, in tempo di crisi, sopravvivenza per adulti fumatori. Saranno poi inasprite le sanzioni per la vendita e somministrazione di tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori. 4.000 euro di multa e sospensione della licenza per 3 mesi alla prima violazione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo la Commissione Agricoltura, anche la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha rigettato la proposta di un nuovo regolamento sulle importazioni di OGM. Il prossimo voto sullo stesso testo è previsto in plenaria il 28 ottobre, poi la parola passerà al Consiglio UE. Si tratta di un regolamento presentato lo scorso aprile dalla Commissione Europea che permetterebbe ai 28 Stati membri di vietare l'uso di OGM sul proprio territorio. È stato bocciato dalla Commissione Ambiente, che ha adottato la relazione del proprio capogruppo Giovanni La Via con 47 voti a favore, 3 contrari e 5 astenuti. Il testo di La Via, già approvato anche dalla Commissione Agricoltura la scorsa settimana, rappresenta i timori degli eurodeputati, i quali non vorrebbero che vengano banditi mangimi transgenici dall'alimentazione animale. Temono infatti una distorsione del mercato unico e ricadute economiche, visto che circa l'80% della soia che l'Unione Europea impiega ogni anno negli allevamenti delle vacche da latte è già OGM. Giovanni La Via, capogruppo Commissione Ambiente. Sarebbe contro il mercato interno, impedirebbe la libera circolazione dei prodotti, ci imporrebbe di avere in Europa un allevamento di serie B meno competitivo perché non usa organismi geneticamente modificati. La normativa proposta poi, secondo il testo di La Via, non è chiara, perché il divieto sugli OGM sarebbe solo sul loro utilizzo e non sulle importazioni. Paradossalmente, quindi, se uno Stato membro decidesse di porre il veto, non saprebbe poi come farlo rispettare. I temi affrontati a Bruxelles verranno approfonditi da agricoltori e ricercatori giovedì 15 ottobre a Milano con il seminario GM Crops Policies – Where We Are, Where We Go. Nell'incontro si parlerà anche delle conseguenze della recente decisione di 19 Stati dell'Unione, Italia compresa, di limitare o vietare le coltivazioni OGM. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nei primi 9 mesi del 2015 710.000 migranti sono entrati nell'Unione Europea. Lo dice il Frontex, l'agenzia europea che ha il compito di coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne. Nel 2014 il totale degli ingressi era stato pari a 282.000. Alle 14, 5 minuti e 39 secondi, vi saluto qui Daniele Biacchiesi. Europa 24 torna questa sera all'interno di Effetto Notte. Europa 24. Collaborazione con Euronet Plus.